Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Paolo Scudieri, dal Sud, la sfida dei poliuretani, di Vittoria Mussini. La storia d'impresa di questa puntata è quella di Adler Group, tra i leader mondiali nella progettazione e produzione di sistemi per il comfort acustico e termico dei veicoli, componenti per auto come rivestimenti, pannelli, interni, guarnizioni. Sede a Ottaviano, in provincia di Napoli, Adler Group conta 58 stabilimenti in 18 paesi, 820 milioni di euro di fatturato. Al timone dell'azienda, Paolo Scudieri, classe 1960. La famiglia Scudieri ha iniziato nel 1930 nel settore del tessile. È il padre, Achille, fondatore di Adler Group, a segnare la prima svolta, passando alla produzione di imbottiture per divani e cuscini, utilizzando i poliuretani espansi, materiali di cui intuisce le potenzialità quando ancora erano poco diffusi. Ha compreso all'epoca che la famiglia si allargava e che quindi troppe persone nello stesso business potevano ostacolarsi, e quindi comprese subito, visitando questa fiera di Düsseldorf, che ancora esiste, si chiama Plast, che è la più grande fiera per il settore delle materie plastiche, notò questa innovazione, ne comprese l'evoluzione che poteva dare alla vita, al quotidiano. Questa materia che fino allora era estremamente sconosciuta e che invece poi nel tempo, con una progressione strabiliante, ha occupato sempre più momenti della vita comune di ognuno. Quindi ha sostituito come prime applicazioni gli elementi naturali che occorrevano per pulire le stoviglie piuttosto che le imbottiture dei materassi, quindi è diventato oggetto del comfort. Nel 1982 Paolo, a 22 anni, entra in azienda cercando una nuova prospettiva per i poliuretani. Ancora una volta il fattore generazionale segna la storia del gruppo. Analizzando dove poteva essere collocato questo materiale, che comunque si evolveva, quindi in modo innovativo, costantemente, pensai che l'industria dei trasporti poteva essere quella maggiormente ricettiva. E di lì siamo partiti con la nuova storia, insomma. Ero all'epoca estremamente giovane, abbastanza giovane, quindi mi proponevo a un settore estremamente già organizzato, quindi a un settore che aveva delle basi solide e delle partnership consolidate. Quindi è stato assolutamente difficile, ancor più perché il prodotto che allora proponevo, che era un antivibrante, tipo poliuretano evidentemente, non era un materiale utilizzato, per cui non era consono a quelli che erano gli standard. E allora ero un uomo del sud, ero un uomo giovane, ero un uomo che proponeva un'innovazione, una miscela di difficoltà spaventose. L'Alfa Romeo è la prima a credere nel giovane imprenditore che risolve il difetto di una vecchia vettura, l'Alfa 33, che aveva un problema al bocchettone del carburante. Paolo si aggiudica la prima commessa omologando una guarnizione. L'affermazione del giro d'affari e la credibilità aziendale arrivano con due prodotti brevettati. Votati all'innovazione, abbiamo subito portato dei materiali acustici che alleggerivano il peso in vettura e che davano delle performance almeno pari ai materiali tradizionali. Per cui alleggerire una vettura vuol dire consumare meno, vuol dire avere una vettura più sicura, e se questa è parimenti o meglio a miglior comfort, sicuramente è un risultato di pregio. Così abbiamo iniziato a brevettare un prodotto che all'epoca si chiamava Phonocell, poi abbiamo brevettato un prodotto straordinariamente importante che si chiama, è ancora sotto tutela brevettuale, che si chiama Puller. Questi prodotti hanno dato veramente una propulsione straordinaria, un'affermazione e una risoluzione di problematiche tecniche e tecnologiche applicative, facilitando i montaggi del prodotto stesso, e quindi sono state apprezzate nel mondo. Paolo Scudieri ha dato una forte spinta all'internazionalizzazione dell'azienda di famiglia, ma è ad Ottaviano, un territorio difficile, che rimane il cervello Adler Group. Dai territori difficili, se si tolgono gli alberi con le radici forti, gli alberi che danno buoni frutti, nasce subito l'erba cattiva. E quindi noi riteniamo che un'azione di restare sui territori, di avere un'azienda che relaziona fortemente con le istituzioni è qualcosa di estremamente benefico. Quindi c'è una storia, una tradizione, ci sono dei territori difficili, ma c'è una convinzione che il bene assolutamente può prevalere, perché deve generare altre azioni positive. Io invito i miei colleghi molte volte a installarsi su territori della Campania, perché sono oggetto sicuramente di sottoutilizzazione, quindi ci sono spazi, ci sono personale, c'è potenzialità, ci sono anche delle leggi che agevolano l'installazione di imprese sui territori sottoutilizzati. Nel 1993 l'azienda si apre al mercato estero. Nel 1996 nascono Adler Polska e Adler do Brasil. Poi arrivano la Turchia e la Polonia. Nel 2008 nasce Adler France. Nel 2009 l'accordo con il gruppo tedesco multinazionale HP Pelzer, leader nel settore della componentistica per auto, con una partnership a livello mondiale, l'ingresso di Adler nel capitale e un accordo per la futura unione. Oggi Adler è il secondo player mondiale del suo settore e i suoi clienti si chiamano Fiat, Suzuki, Opel e Porsche. A Ottaviano resta il cuore dell'azienda, ma le realtà estere crescono spesso in maniera indipendente. Io non dico che c'è un albero che ha una grande radice e poi dei rami. C'è un albero che è una storia più antica. Ci sono tanti alberi che mettiamo nel mondo, sui territori internazionali, che hanno la stessa passione, che hanno lo stesso DNA, che attraverso la storia e con l'innovazione affrontano il futuro. Ogni luogo ha una propria storia, dei propri usi e dei propri costumi. Noi dobbiamo coltivare, nel rispetto di quegli usi e di quelle questioni, l'azione imprenditoriale. Valorizzazione attraverso la missione dell'impresa, valorizzazione dell'etnia, di tutto ciò che è il localismo, di tutto ciò che sono gli usi e costumi locali. Non abbiamo mai prevaricato. I nostri direttori dei territori dove ci installiamo sono sempre persone altamente professionali, ma persone dei luoghi. Non ci piace avere la veste di chi va e impone delle culture diverse. Noi vogliamo intimizzarci con quelle culture che rappresentano la storia di quelle nazioni. Anche la ricerca e l'innovazione sono internazionali, attraverso partnership con università italiane e straniere. Lavoriamo in Canada, lavoriamo in America, negli Stati Uniti d'America, nel Michigan, con i vari centri di ricerca, varie università, e ci confrontiamo continuamente. Organizziamo dei meeting internazionali a cui partecipano italiani, giovani canadesi, giovani statunitensi, e siamo particolarmente felici di vedere queste generazioni a confronto su tematiche molto precise, vedere la concretezza e quindi la speranza del mondo che può andare verso azioni virtuose, che possono razionalizzare l'utilizzo delle materie prime derivanti da elementi naturali, che possono alleggerire i prodotti per renderli più sicuri, di meno impatto nell'ambiente. E l'ambiente per l'azienda è un tema forte. Abbiamo abbattuto l'utilizzo di materie prime naturali del 30%, sostituendolo con materie prime ottenute dal riciclo. Stiamo continuando su questa strada. Speriamo nei prossimi 2 anni di arrivare a un equilibrio tra 50% di materie prime vergini e 50% di materiali riciclati. Altri prodotti invece sono completamente da materiali riciclati, attivando così un virtuosismo che sicuramente porta benefici dal punto di vista economico, ma evidentemente anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale. A 51 anni è ancora presto per pensare al passaggio generazionale, ma la nuova leva scalpita, e se nel DNA di Adler c'è il gene della diversificazione, anche per Achille, il primogenito, vale la regola del cambiamento di rotta. Ho metabolizzato il fatto che una quercia può fare ombra. Sicuramente il mio primo figlio, Achille, che inizia a mostrare grandissimo interesse per l'impresa, anzi sono io volutamente a tenerlo ancora da parte, e avendo compreso questa mia idea lui sta cercando di uscire dal cono d'ombra della quercia e quindi sta approcciando un settore che può essere ulteriormente di diversificazione, l'abbigliamento, e vedo che la persegue con passione, dedizione e competenza. Spero un giorno, ma questo veramente sottovoce, che possa essere sicuramente legato alle sue passioni, ai suoi principi, a quello che vuole fare credendoci fortemente. No, quindi non vincolo assolutamente a nessuna cosa in particolare. Devo dire che la massima espressione e le massime performance si possono dare solamente se si è fortemente convinti di quello che si fa. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.